La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24, buon inizio di settimana. Per chi è napoletano, buon San Gennaro. Pare che abbia fatto un miracolo ancora prima che estraessero le fiale con il suo sangue stamattina. E vi dico subito di che trattiamo. Grazie per l'ascolto. Sono le 16:30, primi 38 secondi, quindi diretta agli studi di Milano. È un aggiornamento della stessa puntata che facciamo l'indomani delle elezioni locali in Germania, nel Mecklenburg-Pomerania, perché molti di voi lo sapranno, ieri si è votato per le elezioni locali a Berlino e si è ripetuto, ma in proporzioni diverse, il fenomeno del successo elettorale di Alternative for Deutschland. Anche in questo caso hanno perso significativamente i due partiti che tradizionalmente siamo abituati a considerare partiti di massa del sistema tedesco nei decenni, cioè i socialdemocratici e la CDU. E il problema che ci poniamo è triplice, per capire meglio con due ospiti. Primo, cosa vuol dire la somma di questo voto anche a Berlino dopo Mecklenburg e Pomerania a livello nazionale? A livello nazionale, innanzitutto la cancelliera. Anche stamattina, secondo punto, la cancelliera ha avuto, come all'indomani del voto insoddisfacente a Mecklenburg-Pomerania, una consultazione con i vertici del suo partito e ha rilasciato delle dichiarazioni che vedremo, e la domanda è se queste dichiarazioni ciò che ha determinato un pezzo della crisi europea dall'estate 2015 e anche successivamente la reazione dell'elettorato tedesco nei confronti della CDU e della Merkel, oltre alla reazione di tutti i paesi del blocco dell'est europeo, e cioè l'immigrazione, ecco, chiederemo ai nostri ospiti se queste dichiarazioni di stamattina della Merkel sono un cambio della posizione tedesca oppure no. Terza cosa, non dimentichiamoci che noi abbiamo alle spalle la polemica che il premier italiano Matteo Renzi ha sollevato nei confronti delle conclusioni del vertice del Consiglio europeo di Bratislava, ed è stata una polemica frontale nei confronti della Germania, perché i due punti su cui Renzi, che non ha partecipato alla conferenza stampa congiunta franco-tedesca Hollande-Merkel, ha poi sollevato duramente nelle sue dichiarazioni, che avete sicuramente visto sui giornali, riguardano sì il patto di flessibilità e la crescita, ma poi anche proprio l'immigrazione. Su questo si è soffermato più a lungo che sul primo punto Renzi, dicendo, espressione di circostanza, quello del documento di Bratislava, così non si va avanti, perché la parte degli impegni dei paesi provenienti dai flussi, che generano i flussi, non c'era in quel comunicato. Non è che possono continuare a lasciare l'Europa, l'Italia da sola, dopo che nel comunicato si continuava a parlare solo dell'accordo con la Turchia, quello con cui si è di fatto chiuso il corridoio balcanico, lasciando aperto quello mediterraneo. Allora, questi tre blocchi di problemi fanno capire che non è solo un interesse verso la politica interna tedesca, queste tre domande riguardano il presente della crisi europea e non solo le difficoltà della Merkel per decidere se ricandidarsi o meno l'anno prossimo. Anche stamattina ha eluso le domande. Ricordo a tutti che il congresso della CDU si terrà comunque a dicembre, quindi a dicembre dovrebbe sciogliere il dilemma la Merkel se si ricandida o meno, ma non riguarda solo la Germania, riguarda la crisi della politica europea e naturalmente anche la posizione italiana che Renzi ha assunto con grande, mirando a sottolineare il fatto che l'Italia deliberatamente si tirava via, non è d'accordo, insomma, su questi due punti. E l'immigrazione nelle sue dichiarazioni pesava addirittura più dell'eventuale flessibilità aggiuntiva che il governo chiederà. Vedremo la legge di stabilità che esce il 20 ottobre. Allora, per capire meglio dobbiamo cominciare dall'analisi del voto a Berlino sommato a quello del Mecklenburg-Pomerania, e per queste tre domande, iniziando dall'analisi del voto, le sottoponiamo ai nostri due ospiti. Abbiamo Udo Gumpel, lo conoscete, giornalista e corrispondente all'Italia per la rete televisiva tedesca NTV del gruppo Bertelsmann. Grazie di essere con noi, Udo. Volentieri. E Francesco Cancellato, che è il direttore dell'inchiesta, che è autore di un libro, per chi non l'avesse letto, il libro si chiama Fattore G, perché i tedeschi hanno ragione, un libro controcorrente. Allora, Udo, le sorprese e il significato del risultato elettorale a Berlino sommato a quello del Mecklenburg-Pomerania. Cominciamo da te. Allora, no, normalmente non mi piace farti le pulci a te, però stavolta me l'hai servito proprio come un atto fantastico, perché tu parli del Mecklenburg-Vorpommern come una delle elezioni da osservare, da guardare, è Berlino, e ti sei dimenticato le amministrative che ci sono state due settimane a Niedersachsen. No, ma è importante. Molto. Tutta la stampa italiana non l'ha voluto commentare perché? Per una ragione molto semplice, perché Prendiamo solo i due partiti che interessano solo agli osservatori italiani, che poi peraltro è anche un errore. Prendiamo i democristiani e l'AfD, no? Allora, nel Mecklenburg-Vorpommern sappiamo che l'AfD arriva addirittura a superare la Merkel, 22%, la sensazione. È vero, una forte affermazione, però in un paese che ha 1.500.000 abitanti, ok? Sì. Meno della metà di Roma, va bene? Cioè, non neanche Milano, perché economicamente è poco importante, è uno dei più poveri paesi. Le elezioni successive, due settimane dopo, nel Niedersachsen, amministratore, e riguardavano un paese di 7 milioni di abitanti, dunque 5 volte di più, una delle regioni più ricche, più forti, più dense di impresa, sede della Volkswagen, dove i democristiani hanno mantenuto, si sono difesi molto bene, arrivando al 35%, e AfD è arrivato al 7%. E infatti è stato taciuto questo risultato per chiaramente di nuovo finire a Berlino, dove a Berlino c'è, è vero, una forte perdita dei due partiti al governo a Berlino. Io che ho 3 figli che vivono a Berlino, sappiamo anche perché i berlinesi hanno votato contro i socialdemocratici e contro i democristiani, perché hanno governato a capa del cane. Questa è la verità. Berlino c'ha l'aeroporto che da 7 anni si costruisce, sembra l'Italia questa cosa, una barzelletta. È una barzelletta. Le decine di migliaia di profughi che aspettavano all'ufficio sociale in pieno inverno per avere un numeretto, sembrava una roba che neanche la vecchia gestione prima della radio, perché voi sapete adesso tutto diverso, tutto più bello e completamente diverso, ma allora la vecchia gestione prima radio a Roma poteva produrre. Dunque i berlinesi a 2/3 hanno detto: questo è un governo cittadino che ha fatto veramente schifo. Allora è chiaro che i due partiti che hanno governato, e poi all'osservatore italiano, magari anche di una certa parte interessata a vedere finalmente il tracollo della Merkel, la bestia nera della politica italiana, non hanno osservato che c'era in realtà una forte affermazione di due partiti, che uno sono i liberali, ai quali i democristiani hanno perso, che sono un partito storico di una politica liberale, di apertura dei mercati, dunque molto in antitesi sui valori dell'AfD, che sono sull'autarchia, e mentre ha un altro partito, Die Linke, che ha addirittura preso anche 6% in più, sono i vecchi eredi del Partito Comunista, sono comunque però un partito che fa dell'internazionalismo, dell'accoglienza, riprovi che è una bandiera. Dunque, in realtà, ciò che ha vinto l'AfD da un lato, hanno vinto anche altri due partiti. Dunque la situazione berlinese non è così semplice nella sua lettura. Cioè due partiti che non sono in alcuna maniera assimilabili allo sciovinismo, nazionalismo, autarchia, rottura dell'euro, eccetera, eccetera, di Alternative for Deutschland. Non ho capito chi, la FDP, i liberali o... No, i liberali e anche Die Linke, cioè hanno... Die Linke ha una posizione a livello internazionale da anni 50, no? Anni 50. Non dico viva l'Unione Sovietica, ma quasi ci siamo, scioglimento della NATO, robe del genere, ma ci pensa Erdogan a sciogliere la NATO, no? Non ci serve una iniziativa politica loro, cioè loro sono un po' di altri tempi, però a livello regionale e anche cittadino comunale di solito fanno una ottima politica, ma non sono più stato nei passati, a me sembra, è veicolo della protesta, capito? Sì. Sui generi, perché ormai da 20 anni governavano anche regioni dell'est, no? Certo. Come Turinga, governano loro, capito? Perciò non sono lontani da quello che è la protesta. Un fattore però bisogna dire che ha molto a favore, dico anche dell'AfD, l'AfD ha fatto aumentare la partecipazione al voto molto, perché dal 53 al 66%, una metà è andata agli altri partiti, però la maggior parte del voto di questi, diciamo, di questo AfD, questo partito, io direi xenofobo, islamofobico, autarchico, per molti versi vicino al programma di Salvini, no? E che peraltro io non fossi, adesso permettimi questo ultimo incipit, se fossi io da italiano non tiferei il tracollo della Merkel a causa dell'AfD, perché quelli sono 5 volte peggio, cioè la Merkel te la sogni quando arrivano loro al potere. Che nei confronti dell'Europa Latina ci sarebbe un pugno d'acciaio rispetto a quello di... Neanche si discuterebbe di flessibilità, si staccano immediatamente anche le linee telefoniche, cioè, capisci? Cioè, Francoforte c'ha la sede della BCE, con l'AfD al governo, da Roma non si prende manco la linea per chiedere vabbè, i soldi. Dai su, però comunque no, tu... No, ma guarda, questa è follia, cioè tu da italiano dovresti tifare adesso la Merkel perché è indebolita. Questa è dura convincere molto... gli italiani. È vero, vabbè, gli italiani, però tu sei bravo, tu li convinci anche a fare questo, dai, no, sei bravo. Non credo, la mia opinione conta, è molto minoritaria, come sai, ma detto questo, secondo te, la somma di questi voti, fermiamoci qui e poi diamo la parola a Cancellato sull'interpretazione del voto, rende più o meno solida la grande coalizione a livello nazionale tra SPD e CDU-CSU? Ma rende meno solida quel tipo di coalizione perché... E si capisce anche che se i due partiti maggiori formano il governo è un danno alla democrazia del paese, perché è chiaro che a questo punto non c'è più una vera alternativa. Si dà l'impressione del sistema, no? Tutti d'accordo, e naturalmente c'è sulla politica della migrazione, i politici sono molto d'accordo con la Merkel, la popolazione voleva un taglio a questa indiscriminata accoglienza. Ma la Merkel stamattina nelle sue dichiarazioni ti è sembrato che cambiasse linea oppure no? Allora, la Merkel ha detto io in realtà sono d'accordo, e lei ha citato addirittura questo dato dell'86% dei tedeschi che non vuole una indiscriminata apertura dei confronti, dei confini a tutti senza controlli. Insomma, il massimo dell'assismo in quei mesi da settembre a dicembre dell'anno scorso. Sì. Allora lei ha detto noi non ce l'abbiamo più, abbiamo avuto questa situazione per 4-5 mesi e già da mesi non è più così, però forse io non ho detto che non lo volevo più, perché così io, voi, magari qualcuno può pensare che io voglia mantenere questo status quo. Lei ha spiegato stamattina in una conferenza stampa, ha detto che io in realtà questo era un atto umanitario momentaneo che poi è stato anche finito, bloccato, infatti. Quindi la conferma che le porte restano chiuse adesso. Le porte restano chiuse, tranne per coloro che hanno diritto. Perciò la vera, unica questione aperta ancora tra lei e il partito Fratelli Coltelli, quelli di Bavaresi, no? E della CSU, è vogliamo avere anche per la Germania un tetto massimo di richieste di asilo politico o di richieste di sussidiario di poter permettere di stare un attimo in Germania, oppure non lo facciamo. E lì la Merkel ha detto la nostra Costituzione, come peraltro tutte le Costituzioni del mondo, ci obbligano a non mettere un tetto massimo, perché se ci sono 1000 persone che hanno diritto perché sono perseguitate nei loro paesi di rischiare la vita, non possiamo dire al millesimo più uno no, tu non hai diritto, fai la richiesta l'anno prossimo, no? Quello che succedeva anche agli ebrei e durante Hitler in Svizzera e in molti altri paesi che avevano esaurito i contingenti da salvare vite umane. Questo dice lei, non lo facciamo, però facciamo di tutto per ridurre notevolmente il numero. E su questo la polemica di Renzi non ha in realtà senso, perché la Germania comunque anche quest'anno prenderà circa 300.000 profughi che resteranno stabilmente in Germania. Non li accoglie solo magari di passaggio, perché molti dei profughi arrivano in Italia, sappiamo, vorrebbero in realtà andare al nord, ma data la chiusura delle frontiere okay, sono costretti a restare. Fermiamo, no? Ti fermo un secondo qua e poi andiamo al post Bratislava. Francesco Cancellato, allora esageriamo in Italia la lettura di questi voti, anzi ce ne dimentichiamo addirittura di informare i nostri ascoltatori o lettori quando i voti, quello intermedio tra Mecklenburgo e Berlino testimoniano che in realtà la CDU tiene piuttosto che perdere. Sei d'accordo con questa interpretazione, Francesco? Ma io potrei anche stare zitto, visto che sono stato completamente d'accordo con quello che ha detto Gumbel. Completamente? Completamente, al 100%. Condivido in toto la sua analisi. Aggiungo un dettaglio però, nel senso che io sono anche, di più, sono anche convinto che non ci saranno alla fine, però è una mia interpretazione, grossi problemi a formare una grossa coalizione alle prossime politiche in Germania, e sono... per quello che comunque percepisco anche, c'è un modo di affrontare le cose in Germania che è abbastanza diverso rispetto all'Italia. Ah, questo è poco mai sicuro. Quindi una maturità politica maggiore, ecco, per usare parole molto chiare. Ti esponi anche tu a raffiche di insulti degli ascoltatori. Arriverà. Allora, no, però aggiungo io, una cosa, sì, però. Io però a quel tema punto... è la guerra dentro la CDU. Cioè, la questione, secondo me, è capire quanto il partito e un po' di stilettate sono arrivate in questi mesi sì. ad Angela Merkel, sia più o meno favorevole, insomma, a confermarla o a cercare un cambio di guida. Queste sono cose ovviamente che non si mettono in piazza come no, nel certo, Partito che formalmente i cinque vice si sono già dichiarati per la sua riconferma al congresso, però formalmente vuol dire poco. Esatto, informalmente diciamo ci sono un po' di dubbi, lei non scioglie le riserve, giustamente è molto prudente come da copione, come da personaggio, quindi lì staremo a vedere, anche perché sarebbe il quarto mandato da cancelliere, insomma, sì, non poco. È una cosa abbastanza inedita anche in un paese che ha una stabilità politica. Però allora comincio da te per chiederti un'opinione, che poi dopo la pausa chiediamo anche a Udo, su Bratislava e Renzi. Renzi ha molto marcato, evidente che lo ha fatto pensando all'Italia, ma che cosa pensi di quello che ha detto dopo il Consiglio? Beh, al netto, insomma, io non sono nella testa di Renzi, quindi non so definire il grado di strumentalità con cui ha fatto le sue dichiarazioni. C'è chi dice offeso perché non era stato invitato alla conferenza stampa, c'è chi dice che l'ha usato pro domo propria perché la Merkel non è esattamente popolare in Italia e quindi attaccarla potrebbe essere un modo per insomma, per guadagnare punti in vista del referendum. C'è chi dice che è parte della trattativa per la legge di stabilità. Io mi rifaccio a quello che dice oggi Angela Merkel, che trovo abbastanza condivisibile. Lei dice c'è una situazione profughi, ed è un discorso, c'è la situazione migranti economici, che è il discorso che riguarda l'Italia. È evidente che il vertice di Bratislava verteva sulla questione profughi, verteva sulla redistribuzione dei profughi a livello continentale, e la dialettica era est-ovest, non tanto nord-sud. Quindi rimarcare costantemente la questione della Turchia e del blocco della rotta a est era esattamente, diciamo, il punto centrale di quello specifico vertice e di quella specifica emergenza. La questione migranti economici, l'Unione Europea ai noi non l'ha risolta. C'è un'ipotesi di presidio delle coste che riguarda, diciamo, la creazione di un esercito continentale, di una guardia costiera, che è in qualche modo in agenda, ma trovo pretestuoso il fatto che Renzi chiedesse che in quel vertice ci fosse anche un riferimento al sud. C'è il riferimento di fare un piano per un esercito europeo o comunque per una guardia costiera europea dentro dicembre, quindi quello mi sembra già abbastanza sufficiente. Quindi sulla vicenda io trovo che ci sia un buon delta di pretestuosità da parte del nostro Presidente del Consiglio. Allora, tra un minuto, intanto traffico, sentiamo cosa pensa Udo Kumpel delle dichiarazioni di Bratislava. La versione di Oscar. Eccoci tornati a interrogarci sulle conseguenze del voto locale a Berlino, le sue conseguenze sulla leadership della Merkel, sulla sua eventuale ricandidatura l'anno prossimo e sull'Europa alla luce dell'interpretazione molto muscolare che la premiership italiana ha detto di quello che ha definito un fallimento a Bratislava. Ricominciamo con Udo Kumpel, allora, dopo aver sentito l'opinione di Francesco Cancellato sul fatto all'interno del CDU alla fine si andrà secondo te a dicembre alla conferma della Merkel come leader, e poi dacci un'interpretazione della posizione italiana a Bratislava, fuffa e recita oppure sostanza che si aggrava nel 2017, quando poi qui a marzo bisogna venire a celebrare l'anniversario storico dell'avvio dell'Unione Europea nel 57 col Trattato di Roma. Che pensi? Io penso che tutto in mano alla Merkel, no? Decide lei da solo, in modo del tutto autonomo, se lei vuole ricandidarsi, perché nessuno si potrà opporre, anche se i bavaresi, cioè i amici bavaresi della CSU, vorrebbero spodestarla, ma non hanno nessun candidato, nessuna candidata alternativa. Tutti i maschi che una volta competevano con lei sono stati tolti dalla competizione, perché lei è una molto brava in questo, e un bavarese non sarà mai eletto, perché anche questa è una delle leggi della politica tedesca. Ci ha provato Strauss, non perché sia per il dialetto, ma semplicemente per questo modo di fare simpatico. Io sono tifoso del Bayern Monaco, ma non vorrei vedere un bavarese a guidare la cancelleria, no? E dunque li lasciamo a guidare i campi di calcio, peraltro sotto guida di un italiano, cioè siamo a posto sotto questo profilo. Mentre rispetto a Renzi, devo dire, io ho raccolto tra il personale politico tedesco solo stupore, perché in realtà non c'era nessuna ragione. La Merkel addirittura stamattina ha ripetuto qualche cosa che aveva già detto al vertice, una forte autocritica. Ha detto: rispetto alla crisi migranti, noi abbiamo fatto occhi da mercanti, abbiamo orecchie, abbiamo guardato da un'altra parte, ci siamo trincerati all'accordo di Dublino. E naturalmente l'Italia prima del 2011 non aveva una crisi migranti, lo sappiamo benissimo. E poi fino al 2014 l'Italia ha risolto il problema e semplicemente esportandoli verso il nord, no? Non controllandoli, non registrandoli, così erano vergini migranti nei paesi del nord. Dunque c'è stato in realtà in quell'anno, in quei primi anni della crisi migranti, una non sincerità da parte tedesca, che non volevano vedere il problema per il nome e cognome dall'Italia. L'Italia ha fatto il furbo mandandoli semplicemente non registrati al nord. E l'ho visto tante volte, sono stato in tutti questi CARA e vari centri di accoglienza, non furono mai registrati, furono messi addirittura alla fine dell'emergenza, cosiddetta emergenza Nord Africa, furono dati a molti di questi 500 euro in mano, un biglietto di treno di solito all'epoca è verso la Francia, verso il Belgio, perché quando erano tunisini parlavano benissimo francese, e così l'Italia si è sbarazzato del problema, che non era proprio un modo istituzionale, e lo sappiamo. Però è chiaro che oggi frontiere chiuse significa però tutto questo deve essere fatto all'interno, in seno all'Unione Europea, gli accordi con i paesi Maghreb oppure con i paesi africani che ci mandano i migranti economici, gran parte, vanno fatto non da 27 singoli paesi come è finora in realtà la prassi legale e la necessità, ma andrebbero fatto dal punto di vista dell'Unione Europea. E allora la figura che ha fatto Renzi di non mettersi da parte era incomprensibile, perché prima baci e abbracci a Ventotene, baci e abbracci a Maranello con la Merkel, siamo tutti perfettamente d'accordo, e alla fine della conclusione di un vertice informale dove non è stato preso nessuna decisione, lui fa questa sceneggiata. Perdonate, a me mi sembra adesso disperato il Presidente del Consiglio, tenta di nuovo convergere nel suo ondivagare un po' sull'anti-merkeliano per raccattare qualche voto al referendum. Guarda, io temo che se le cose stanno così come si profili, no? Il referendum, lui arriverà al famoso vertice 50 anni a Roma, sì, l'anno prossimo, come l'Endaco, ovvero Anatra Zoppa, perso il referendum, avrà se lo perde è oggettivo, questo bisogna vedere, lui si gioca tutto per che, tutto. Sì, certo, si gioca tutto per tutto. C'è una regola che a me sembra un po' trascurata in Italia. Di solito, se ti metti all'ultimo secondo a scimmiottare le posizioni di chi si oppone a te, l'elettorato corre il serio rischio di preferire gli originali. Cioè, se vuoi metterti a fare la polemica anti-Unione Europea e anti-euro, non vedo perché la gente non dovrebbe preferire chi la fa più seriamente, più duramente, non più seriamente, ma più duramente da più tempo di te. Cioè, a quel punto si vota Salvini, si vota 5 Stelle e così via. Però questa è una mia osservazione. Non vale nulla, cari ascoltatori. Avete sentito che ci sono osservatori? Udo Gumpel, voglio dire, è tedesco, ci mancherebbe, non è tedesco, è un giornalista che segue l'Italia e la Germania. Però anche Francesco Cancellato, direttore dell'inchiesta e autore del libro Fattore G, perché i tedeschi hanno ragione, vi ha dato una lettura, diciamo, di quello che è avvenuto da Berlino a Bratislava, eccetera. Ammettiamolo, no? Io sono contento di questo. Molto diversa da quella che trovate praticamente su tutti i giornali italiani. L'informazione serve anche a questo, proporvi un punto di vista diverso. Chissà che non sia proprio realistico questo. Continuate su Radio 24, grazie ai miei ospiti. Appuntamento domattina alle 8:20 con me, Alessandro Minella. Attenti a noi due.